Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. È un momento particolare perché il tempo stamattina, insomma, abbastanza caldo e poi c'è anche lo scirocco, mare increspato, si pensava di poter andare già a mare. La primavera non è ancora esplosa in tutte le sue sfaccettature. Questo ci interessa molto perché, insomma, il meteo influisce molto sulla nostra psiche e anche sul nostro fisico, perché siamo fiaccati da questo caldo che non è non si può sopportare di questi tempi. Volevo suggerirvi degli appuntamenti importanti. Intanto Caffè Letterario, la Galleria di Cefalù, c'è una bella presentazione del libro di Corrado De Rosa e Laura Galesi, Mafia da legare, prefazione di Pietro Grasso, che è l'attuale presidente del Senato. Corrado De Rosa, Laura Galesi, prefazione di Pietro Grasso, Mafia da legare, venerdì 17 maggio, non lo dimenticate, alle ore 17:30 presso la Galleria Caffè Letterario, via 25 novembre o via Mandralisca a Cefalù. Gli interventi saranno del professor Mario Lombardo, che è il nostro direttore responsabile, nonché giornalista professionista, e il professore Mario Macaluso, anche lui un collega della stampa. Ci sarà peraltro la diretta anche di GRM e Epiredio, quindi vi ricordo l'appuntamento venerdì 17 maggio, quindi domani alle ore 17:30 presso il Caffè Letterario La Galleria. C'è la presentazione di un libro che attiene molto alle tematiche di mafia, infatti si chiama Mafia da legare, prefazione da parte di Pietro Grasso, che è l'attuale presidente del Senato. Un'altra nota da sottoporre alla vostra attenzione: c'è una bella mostra fotografica, Ottagono Santa Caterina, Piazza Duomo a Cefalù, dal 16 al 19 maggio 2013. L'orario che per quanto attiene le visite sono le 10, le 13, le 18 e le 20. La commissione giudicatrice è l'ingegnere Giuseppe Martorana, presidente del Lions Club di Cefalù, il professore Francesco Amodeo, past governatore sempre del Lions Club, il signor Nino Bellia, presidente nazionale UIF, il signor Giuseppe Francesco Baimonte, fotografo, signor Michele Naccari, fotoreporter studio camera, signor Sandro Varzi, fotografo, presidente, dottor Vincenzo Cucco, art director. Per quanto attiene invece un altro aspetto sempre di questa grande manifestazione, c'è il secondo concorso fotografico energie rinnovabili a salvaguardia ambientale, categoria regno animale, paesaggi, regno vegetale, fenomeni atmosferici. Primo concorso festival principale del cortometraggio scolastico, questo è pure importante, premiazione dei vincitori e proiezione dei filmati presso il Teatro Salvatore Cicero, domenica 19 maggio 2013 alle ore 18, nel contesto della performance teatrale della compagnia Fiori di Carta Lunedì Riposo, con gli attori Clelia Cucco, Giuseppe Montaperto, Stefania Sparandeo e Giuseppe Carrozza, regia naturalmente della stessa Clelia Cucco. Vi rinnovo quindi questo appuntamento dal 16-19 maggio, la mostra. Per quanto attiene invece il secondo concorso fotografico presso il Teatro Comunale, il 19 maggio, domenica, dalle ore 18 in poi. Detto questo, bisogna fare una precisazione. Oggi abbiamo tre argomenti importanti. Tempo fa è stata nostra ospite una cantautrice che sta avendo grandi successo a livello nazionale, scrive le musiche, arrangia le musiche, scrive i testi, sono straordinarie, è uscito con un nuovo video, Non c'è dialogo, è il titolo di questo video, e tra poco avremo il piacere di sentirla e vederla anche, perché ve la manderemo in onda su streaming, e quindi seguiteci con attenzione. Intanto io direi, se la regia è d'accordo, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, al rientro cominceremo a sentire Mara Bosisio, che è una ragazza che aggredisce proprio letteralmente il palco e scrive delle cose veramente straordinarie. Sentirete questo pezzo, lo vedrete, è qualcosa di meraviglioso. Direi a Santo Genovese, a questo punto ti do la linea, Santi, ci sentiamo tra poco. Nel frattempo la regia si attiva anche per chiamare la nostra ospite, intanto gradirete qualche consiglio per gli acquisti o un po' di musica. Via la regia. E allora rieccoci in diretta, vi ricordo che potete seguirci anche su www.crmpiredio.it, siamo in diretta streaming, quindi potete anche vederci se volete. Invece chi volesse mettersi in ascolto in macchina o nei negozi, negli uffici o nei bar, deve prendere andare sulla frequenza 101.4. Allora, abbiamo già in diretta radiofonica la prima ospite della trasmissione, una cantautrice, una compositrice straordinaria, l'abbiamo avuto qualche mese fa già qui per lanciare uno dei suoi brani, ma c'è un brano particolare che mi piace molto ed dà il titolo poi al suo ultimo lavoro, al video tra l'altro, che tra poco manderemo in onda. Mara, buongiorno. Mara Bosisio, pronto? Buongiorno, siamo pimpanti, buongiorno. Siamo pimpanti. Senti Mara, allora, sì. Intanto io ho visto il video ed è qualcosa di esilarante, mi piace moltissimo, la coreografia è qualcosa di straordinario, e poi quello che ho sempre sostenuto, il fatto che tu sei sul palco, sei una tigre, insomma, anche se caratterialmente poi chi ti conosce come ti conosco io sei molto dolce, insomma, anche se hai il caratterino che abbiamo tutti, insomma, poi in buona sostanza, però non sei così aggressiva nella vita come lo sei sul palco. Senti, quanto hai impiegato a realizzare questo nuovo lavoro tuo, cioè il nuovo video che stai lanciando su YouTube un po' dappertutto? Allora, il nuovo videoclip per il quale ho voluto la collaborazione personale di amici e performer, ballerini che poi si vedono all'interno del videoclip, ha portato via un paio di settimane di prove, perché comunque abbiamo dovuto montare tutto il lavoro in sala prima di trovarci direttamente sul set per le riprese. Sì. E, così non sento niente. E quindi diciamo che il lavoro è stato assolutamente impegnativo, però sul momento della ripresa diretta, durante diciamo le riprese del videoclip, ci siamo divertiti un sacco e è stato emozionantissimo, perché per me era il primo approccio reale a una vera regia, ecco. Tra l'altro ringrazio Marco Lamanna, che è il regista del videoclip, che ha fatto un ottimo lavoro, e Davide Manico, che in realtà è stato poi il regista coreografico, si è occupato un po' del settore ballerini e performer. Mara, dovresti parlare più vicino al telefono. Ah, sì, pensavo se ti allontani. Senti Mara, una domanda mi preme molto, è da circa un anno che tu hai finito gli studi, anche se li continui, no? A suonare, a comporre, sì, eccetera, esatto, eccetera. Dopo questo primo grande sudorazione, perché insomma il lavoro c'è, l'attenzione c'è e l'applicazione soprattutto nel fare le cose bene, però c'è stato anche un grande riscontro di pubblico, no? È stato un ottimo riscontro di pubblico, essendo comunque io un artista che si sta affacciando adesso al mondo musicale, diciamo discografico. E nel primo lavoro ho avuto un ottimo riscontro a livello di visualizzazioni e anche discreto per quanto riguarda gli acquisti. Mentre in questa seconda, diciamo, situazione, con il secondo videoclip e con l'uscita reale di tutto l'album in vendita su iTunes e in varie piattaforme, è caduta la linea, se riusciamo a ripristinarla, se no andiamo avanti con il programma. Intanto, se era possibile mandare in onda il video, così nel frattempo riusciamo, eccolo qua. Allora, dicevamo che insomma sei qui, una ragazza giovanissima, tra l'altro, ha appena finito gli studi da un anno, si è catapultata, si è buttata proprio a capofitto nella realizzazione della sua attività principale, che è quella di fare musica, di creare pezzi, e che pezzi, ragazzi, questo non c'è dialogo, è un pezzo che secondo me insomma spacca. Nessun dialogo, ecco, non c'è dialogo, beh, nessun dialogo, no, la dizione giusta è nessun dialogo. E volevo chiedere a lei il significato di questo titolo, perché comunque racchiude molte, molte cose all'interno. Adesso è caduta la linea, vediamo se riusciamo a ripristinarla. Intanto stiamo mandando in onda il video, eccolo là. Stiamo mandando in onda. Ecco, sentite anche la musica. Nessun dialogo, no, nessun dialogo, nessun dialogo. Allora Mara, stiamo mandando in onda sia il brano che il video, anche video se vuoi, puoi anche seguirci su streaming. Prima di salutarci, volevo chiederti questo, ecco, finito questo lavoro ti riposerai quest'estate o coglierai l'occasione magari tra un tuffo e l'altro in un mare stupendo per avere qualche altra forma di creatività, un aiuto in più da parte della natura? Io mi auguro assolutamente di continuare con la musica, con il mio percorso quest'estate, di lavorare portando avanti la mia musica, magari chissà anche all'interno di altre città diverse dalla mia, e poi vabbè, chiaramente mi piacerebbe prendermi una settimana di relax e magari tuffarmi appunto in uno dei mari più belli d'Italia, che è quello della Sicilia, che io ho veramente a cuore, quindi chissà, magari un ritorno lo farò. Le tue origini sono quasi, sono meridionali, insomma da parte di mamma sei calabrese. Esattamente. Ecco, la grinta nasce da lì. Un'ultimissima domanda, un sogno nel cassetto che vorresti al più presto realizzare, Mara? Adesso come adesso, proprio perché sto diciamo puntando su questo lavoro, mi piacerebbe che raggiungesse una bella fetta di pubblico questo lavoro. E poi mi piacerebbe solidificare il mio lavoro musicale, ecco, quindi riuscire a vivere veramente di musica in maniera serena. E già un po' ce la sto facendo. Bene, in bocca al lupo per tutto. Intanto io invito i radioascoltatori a seguirti anche su streaming se vogliono, o anche su YouTube, così insomma al più presto speriamo di vederti sui grandi schermi delle televisioni nazionali e non solo. Mara, io ti saluto, ti ringrazio per aver partecipato alla trasmissione. Ti ringrazio Filippo. Tanti in bocca al lupo. Grazie mille. E crepasse. Crepi, ciao. Crepi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo avanti con la musica, lasciamo un po' di spazio e poi we're back for three peats. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me loco como como pastelito coco. I get stupid on a beat, see, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatload. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale, she's screaming YOLO. She's Little Red Riding Hood and guess who's el lobo. Me la como. Whose name is global and known? Whose name's on the check and the ad in the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for show. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what, here I am, Jenny from the block, let's rock. You push me harder, I'll do the same. Un'altra volta in diretta, abbiamo ascoltato una voce meravigliosa, avete visto il video, ma anche la grinta con la quale questa ragazza porta avanti il suo credo nella musica, in quello che fa lei, e credo che abbia veramente tanta voglia di sfondare, ma anche le caratteristiche, le capacità per poterlo fare. Volevo ringraziare Panificio Biscottificio Fratelli Tumminello, perché intanto fanno dei biscotti veramente buoni, ma uno mi può dire ma tutti fanno biscotti buoni? No, non è così, perché pur essendo un procedimento semi-industriale, ma hanno un tecnologia molto all'avanguardia, ma i prodotti che usa il biscottificio Panificio Tumminello sono nostrani, cioè dalle uova al latte, senza aggiunta di null'altro di additivi industriali. I biscotti sono come quando li faceva la nostra nonna o la nostra mamma in casa, per cui potete darli tranquillamente ai vostri bambini e possiamo mangiarli per fare un break, la colazione, un break o anche col tè, se volete, insieme a degli amici davanti a una partita di calcio. Sgranocchiateli perché sono veramente gustosi, fragranti, ma con prodotti tipicamente locali, quindi le uova e il latte sono freschissimi, potete mangiare con la massima tranquillità. Vi raccomando quindi Panificio Biscottificio Fratelli Tumminello, biscotti russici al burro, integrali e al cioccolato, che sono una chicca la sera, per esempio d'inverno magari, se volete, perché d'estate il cioccolato dà qualche, può dare qualche noia, ma non lo dà perché, essendo un prodotto genuino e naturale, gustateli, gustateli, e poi quando ci incontriamo mi dite: Fili, avevi veramente ragione, i prodotti, i biscotti Tumminello sono qualcosa di straordinario, perché vengono fatti come una vecchia tradizione, una vecchia ricetta, uova fresche locali di Castelbuono e latte freschissimo locale di Castelbuono. Quindi più di questo l'azienda Tumminello, che si è rinnovata nel tempo di generazione in generazione, tecnologia moderna, ma per quanto attiene le ricette sono quelle di un tempo. Quindi andate a comprare i biscotti dal panificio biscottificio Fratelli Tumminello, lo trovate in via Cefalù 18, vi do anche il telefono per le vostre prenotazioni, 0921 67 311 32 a Castelbuono. Vi ricordo biscottifici Tumminello, biscotti russici al burro integrale e al cioccolato, gustateli e poi mi sapete dire cosa mangiate. L'estate è alle porte, anche se il tempo fa le bizze, bisogna avere gli attrezzi giusti, perché bisogna deboscare, decespugliare la propria campagna, sennò con un fiammifero succedono danni enormi, si rischia anche la denuncia. Per evitare tutto questo bisogna comprare quindi le motoseghe, se non le avete, con delle firme anche prestigiose come l'Alpina, oppure le motozappa come le Ford, o per l'irrigazione, ecco, chi fa l'orto ci vogliono i tubi per l'irrigazione, tutto quello che necessita, i vari avvolgibili, la raccordatura, insomma ci vuole un bel po' di cose, oppure il quad, se volete passarvi un po' di tempo, andare sui fiumi, sui torrenti, sono quelle motociclette a quattro ruote che vi fanno divertire tantissimo, ragazzi, divertitevi, andate a prendere, le giornate sono belle, lunghe, e vi fate delle lunghe scampagnate in campagna, e se volete anche cross e mini cross, per chi ama questo tipo di sport, tutto per la campagna. Poi la trovate in via Roma 75 a Cerda, Salamone Genovese, è una firma, è un prestigio. Per quanto attiene l'informazione su info@salgen.it Cerda, oppure www.salgen.it. Stufe a pellet, questo è importante, attenzione, con detrazione fiscale fino al 50%, la firma è nordica e quindi non si discute sulla sia legna che a pellet, entro il 30 giugno avete l'abbattimento del 50%, quindi andate da Salamone Genovese, tutto per la campagna, dall'attrezzatura minuta, quindi la falce, oppure qualcosa per l'edilizia, tipo il martello, la cazzola, quello che vi serve, c'è tutto, ma anche gli attrezzi che più grossi come il motosega, il decespugliatore, oppure il motozappa che serve per coltivare la terra. Oh, poi per quanto attiene l'ora di pranzo, se oggi volete mangiare del pesce fresco, non dovete far altro che andare ad Alperito Ittica, il meglio del mare. Perché? Perché intanto ve lo dice lo stesso, il perito, ecco, vi porta il pesce freschissimo appena pescato, sentite la fragranza nel piatto, quando proprio il gusto del mare in bocca, per chi ama il mare naturalmente. E poi ogni venerdì a Cefalù, vi ricordo, a tre punti vendita, due a Cefalù, uno a Castelbuono, ogni venerdì c'è il sugo preparato, quindi vostra moglie la vuole prendere con pezzetti di pesce spada, oppure con le acciughe o le sarde, e condite la pasta senza bisogno di aggiungere altro. Quindi Perito Ittica, il meglio del mare, lo trovate a Cefalù in piazza Cristoforo Colombo 8, oppure a Castelbuono in via Vittorio Emanuele numero 40. Detto questo, io mi fermerei un attimo, darei la linea alla regia e vediamo cosa ci propone, dopodiché al rientro chiameremo il secondo ospite che è in scaletta. Linea alla regia. Allora, siamo un'altra volta in diretta, vi ricordo carta e penna in studio Filippo Glorioso, alla parte tecnica, come sempre il nostro grande cantante si è sobbogasato, siamo stati a Roma, Santi Genovese che insomma sta facendo delle cose molto belle, vi accorgerete quest'estate cosa è capace di fare Santi, è un personaggio eclettico particolare e anche un look particolare, peccato che abbia tagliato i capelli perché somigliava tantissimo, ma ricresceranno dice Santi, ok, in bocca al lupo anche a lui per la sua attività lavorativa con il Cantagiro e avrà sicuramente i suoi proseliti. Intanto io ringrazio e do il benvenuto in trasmissione, anche se per telefono, all'onorevole Salvino Caputo. Buongiorno onorevole Caputo. Buongiorno. Allora, intanto le chiedo come sta. Benissimo. Meno male, perché insomma, visto l'andazzo delle cose in Italia, insomma, dire sto benissimo è qualcosa di bello, ci fa piacere perché essendo amici, ma anche quando non lo fossimo, fa piacere lo stesso. Senta, onorevole Caputo, c'è una situazione nazionale del PDL che insomma da molti non è condivisa, anche da parte del PD. In Sicilia invece, la regione siciliana, com'è la situazione attuale? Visto il punto di riferimento nazionale, cioè PD, PDL messi insieme, formano questo governo per le emergenza che in atto c'è in Italia, mentre la regione siciliana com'è la situazione in atto, per capire, perché c'è un marasma, non si riesce a capire, i grillini appoggiano, non appoggiano, approvano. Sì. Posso? Prego, prego. Grazie innanzitutto dell'attenzione che mi riserva e che per me è molto importante. E noi qui al governo nazionale, il governo nazionale è stato costituito su forte pressione istituzionale del Presidente della Repubblica proprio per consentire superare questo impasse politico che si era determinato. Quindi a Roma l'intesa PDL, PD con altre forze politiche nasce da una esigenza diciamo singolare e anche anomala. In Sicilia non è così. In Sicilia il PDL è all'opposizione, è un'opposizione costruttiva di un governo che oggi ha detta non soltanto a noi ma dei sindacati, delle associazioni, di Confindustria, della formazione, del mondo della cooperazione, è ritenuto un governo totalmente inefficiente. Onorevole Caputo, lei ha citato poco fa alcuni fatti importanti, cioè alcune argomentazioni che sono sempre all'ordine del giorno, soprattutto nei mass media. Dico formazione... che in questo momento abbiamo circa 2.000 dipendenti della formazione che stanno scioperando rumorosamente sotto il palazzo del Parlamento per protestare contro le scelte del governo e dell'assessore Scilabbaro. Quindi non c'è possibilità che questi esodati, chiamiamoli così, o licenziati dei vari enti, soprattutto CEFOP, mi pare sono 350 licenziati, che possono essere reinseriti nel contesto lavorativo? Ma il governo non ha una strategia, perché se il governo viene a dire che la formazione oggi così com'è non va, che va riformata, è chiaro che il Parlamento e quindi tutte le forze politiche sono pronte a prendere atto di una riforma. Ma qui si sta distruggendo senza creare, senza costruire, quindi in maniera responsabile e dissennata. Cioè, uno può cambiare un sistema che non va perché ha l'idea di crearne uno nuovo. Qui si sta devastando, ma non c'è lontanamente l'idea di creare un nuovo sistema di formazione. Onorevole Caputo, noi abbiamo uno statuto speciale e lei questo lo sa molto meglio di me perché insomma ha fatto diverse legislature e quindi è competente, voglio dire, al di fuori di questo, lo statuto speciale siciliano in quanto potrebbe migliorare le cose nella nostra regione a differenza di quelle nazionali? Ma lo statuto è una carta che dà indicazioni e prerogative ma impone anche delle strategie. Ma il problema poi è la politica, è le istituzioni che rendono applicabile o meno lo statuto. Qui il problema è che lo statuto è inapplicato perché la classe politica, e mi riferisco alla maggioranza e al governo, non sono in condizione di valorizzare questo importante strumento e lo dimostra il fatto, un caso per tutti, che arrivano 500 americani a Sigonella e il governo non ne sa nulla, non è stato interpellato e ci troviamo una militarizzazione nel territorio, devo dire in aperta violazione dello statuto, perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che per statuto siciliano il Presidente della Regione è il capo responsabile dell'ordine pubblico in tutta la Sicilia, quindi basta questo fatto per dire che siamo diventati una colonia e non siamo una regione che ha un'autonomia. Pronto? Sì, la sento, sì. La sento. No, no, no, la sento benissimo. Allora, dicevamo quindi che lo statuto potrebbe, se usato ad hoc, insomma, dare delle soluzioni. Non c'è dubbio. No, abbiamo uno strumento straordinario che non utilizziamo. Abbiamo una Ferrari, ma la teniamo ferma. Bene. Allora, si parla di crisi economica. Noi in Sicilia ne sappiamo di più, forse il centro-sud Italia, in particolare Sicilia e Campania, oltre la Basilicata e la Calabria, insomma, siamo nell'occhio del ciclone. Ma appunto, facendo riferimento, onorevole Caputo, al discorso dello statuto, mi pare, se non ho letto male da qualche parte, in qualche quotidiano, da un'intervista rilasciata da Crocetta, si parlava delle tasse che le aziende che vengono fuori dalla Sicilia, dal nord Italia, ma anche estere, che vengono divisite in Sicilia, sarebbe giusto che lasciassero le tasse nelle casse della regione siciliana. A che punto è questa proposta? Ma è stata inserita nella finanziaria, ma devo dire che il commissario dello Stato ha sollevato perplessità su questa strategia del governo, ma la verità è che se non siamo capaci di creare col governo nazionale una interlocuzione, rischiamo di vendere quello che non abbiamo, anche perché poi è stato contestato l'assessore al bilancio Luca Bianchi, che è tornato a Roma vittorioso, che le somme che il governo ci darà sono somme degli anni precedenti e che in ogni caso sono dovute, quindi non c'è quel più che il governo pensava di avere portato. Perché credo che il governo Crocetta non goda di un'autorevolezza nelle stanze delle istituzioni romane. Le ultime due domande, onorevole Caputo. Io spero presto di avere uno dell'opposizione e uno della maggioranza in studio qui a Cefalù, anche se le distanze, voglio dire, non lo consentono. Perché avremo più spazio, voglio dire, più tempo per approfondire dei concetti. Due domande a chiudere. La prima è, si parla di TAV nel nord Italia, sappiamo che il 70-80% degli investimenti per quanto attiene le infrastrutture, quindi quelle ferroviarie soprattutto, vengono fatte al centro-nord. Centro-sud Italia siamo ancora, come dire, nell'antiguerra. E allora, per quanto attiene il sud, cosa intende fare Crocetta, l'opposizione, il governo regionale in generale, quindi di concerto, visto che siete propositivi su alcune situazioni, quindi c'è una forma di collaborazione, non sarebbe il caso di spingere il governo nazionale ad investire anche nella nostra Sicilia, ma nel sud in generale, per quanto attiene le infrastrutture? Noi siamo carenti di infrastrutture, visto che il turismo, il 70% è veicolato nelle nostre parti. Ma io dico un po' quali sono le vicende, perché proprio ieri ho incontrato l'assessore alle infrastrutture, col quale ho avuto un confronto su alcuni temi importanti. Ora, noi abbiamo l'ANAS che sostiene di aver investito centinaia di milioni di euro per modernizzare il sistema dei trasporti del sud Italia e quindi della Sicilia. Abbiamo la politica nazionale, abbiamo sentito il Presidente della Commissione e infrastrutture e l'organizzatore Matteoli, che bisogna ricominciare a parlare di ponte sullo stretto. Abbiamo chiesto alle ferrovie di investire nuovamente la Sicilia e la regione ha quasi 1 miliardo di euro destinato alle opere pubbliche infrastrutturali, ma che non può spendere perché è legato al patto di stabilità. Quindi, come vede, c'è una situazione quasi paradossale, cioè abbiamo i soldi e non li spendiamo, però abbiamo un sistema di collegamento di trasporto vecchio di almeno 60-70 anni fa. Quindi se il governo riesce a superare, anche dialogando con la Comunità Europea, il patto di stabilità, rischiamo di non investire risorse in Sicilia. Onorevole Caputo, un'ultimissima battuta molto stringata e mi auguro che la risposta sia altrettanto, perché il tempo, mi fanno cenno alla regia, è scaduto. Abbiamo un altro ospite dopo di lei, anche se parleremo di cose, sono cose interessantissime. Tra l'altro l'opinione pubblica segue con apprensione e con attenzione quelli che sono i fatti anche luttuosi che accadono nella nostra ben amata Italia, ma anche nel nostro profondo sud. Si parla di Europa, si parla di patti di stabilità. Io credo che il Presidente del Consiglio dovrebbe essere ancora di più spronato, anche dai governi regionali a statuto speciale e non, a portare avanti questa soluzione ulteriore, questa forzatura nei confronti prima della Merkel, ma soprattutto nei confronti della Banca Centrale Europea. L'ultima domanda che le faccio è: secondo lei questa crisi così profonda, così tetra, gente che si dà fuoco perché gli espropriano la casa, gliela mettono all'asta, non può pagare il mutuo, eccetera, non sto qui a tediarla con quello che accade nei giornali, nei televisori, telegiornali e nel quotidiano, ma secondo lei come se ne esce e in quanto tempo si può prevedere su per giù che di questa crisi possiamo scrollarcela di dosso e dimenticarla, se così si può dire? Ma io credo che passeranno non meno di 2 anni, visto le difficoltà che ha il governo nazionale, visto anche la situazione economica europea e oserei dire anche internazionale. Quindi se non c'è un sistema di interventi e di sostegno all'economia siciliana, probabilmente non riusciamo a risolvere nulla. Ecco perché ritengo che serve una politica concreta di investimenti che noi non facciamo. Onorevole Caputo, lei è stato molto esaustivo, la ringrazio della sua bontà per aver partecipato alla trasmissione, la lascio al suo lavoro. Sempre, chiami quando vuole. Spero di averla presto in trasmissione insieme magari con qualcuno della maggioranza. Grazie ancora onorevole Caputo, buon lavoro a lei. Grazie onorevole Caputo. Allora diamo la linea alla regia, al rientro parleremo con l'ultimo ospite, intanto linea alla regia e ci sentiremo tra poco. Des trois, il n'est pas de moi, mais je peux les voir dans ce jeu. Un des trois, il n'est pas de moi, mais je peux les voir dans ce jeu. Un des trois, il n'est pas de moi, mais je peux les voir dans ce jeu. Un des trois, il n'est pas de moi, mais je peux les voir dans ce jeu. E allora, rieccoci ancora in studio, vi ricordo l'appuntamento con Carta e Penna ogni giovedì dalle 12 alle 13 circa e poi replica domenica dalle 9.30 in poi anche su streaming www.crmpradio.it, podcast, repliche, andate Carta e Penna, insomma, e vi potete riascoltare la trasmissione che andate in onda oggi. Vi volevo ricordare la Galleria Caffè Letterario, promozione, presentazione del libro di Corrado De Rosa e Laura Galesi, Mafia da legare, e ancora prefazione di Pietro Grasso, che è l'attuale presidente del Senato, appunto l'ex magistrato, l'ex presidente della Commissione Antimafia di Roma. E Corrado, dunque, Corrado De Rosa, Laura Galesi, prefazione di Piero Grasso, abbiamo detto, Mafia da legare, venerdì 17 maggio alle ore 17.30, Cappelle Terraio La Galleria, via 25 novembre, via Mandralisca, Cefalù. Gli interventi saranno del professor Mario Lombardo, che è un giornalista ed è il direttore della nostra testata giornalistica, e poi il professor Mario Macaluso, giornalista, anche lui collega della stampa. Ci sarà anche la diretta radiofonica. Vi ricordo anche la mostra fotografica Ottagono Santa Caterina, Piazza Duomo, Cefalù, dal 16 al 19 maggio, l'orario di visita è dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. Commissione giudicatrice, insomma, cominciamo dall'ingegner Martorana e finiamo al preside dottor Vincenzo Cucco, art director. Poi vi ricordo il secondo concorso fotografico Energie Rinnovabili e Salvaguardia dell'Ambiente, categoria Regno Animale, Paesaggi, Regno Vegetale e Fenomeni Atmosferici. È il primo concorso festival provinciale del cortometraggio scolastico, premiazione dei vincitori e prefazione dei filmati. Teatro Salvatore Cicera, Cefalù, domenica 19 maggio alle ore 18. Allora, in attesa che la regia si metta in contatto con il terzo ospite, che è il signor Aldo Casilli, non vi dice nulla così, però se andate sul YouTube, insomma, è un conduttore, è stato uno showman per diversi anni, ha creato il Festival dei Nebrodi che sta riscuotendo e ha riscosso grandi successi. Con lui parleremo di questa kermesse per pochi minuti, perché Big Ben sta dicendo stop. È in diretta radiofonica, l'abbiamo già in diretta, prego la regia di farmi un cenno di annuazione. Sì, ci siamo. Allora, Aldo, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno a te e a tutti quanti quelli che ti ascoltano. Beh, sono pochissimi, io non sono uno showman famoso, quindi voglio dire. Ma non credo siano pochissimi conoscendoti. Tu sei stato uno dei miei, come dire, punti di riferimento, perché anche, come sentite dalla viva voce di Aldo Casilli, vi dicevo, detto così, hai più, come detto così, Filippo Glorioso non è un nome di levatura nazionale, però Aldo Casilli ha una storia alle spalle di showman, di conduttore, di creatore di eventi, e tra questi bisogna nucleare naturalmente la motivazione per la quale l'ho chiamato è questa. Lui è il direttore artistico nonché conduttore del Festival dei Nebrodi. Dico bene, Aldo? Sì, hai detto benissimo, sì, tutto. Allora, quando ti è venuto in mente di iniziare a fare questa kermesse? Quanti anni sono che va avanti il Festival dei Nebrodi? Guarda, sono tanti, sono 29 anni, ininterrotti peraltro, cosa piuttosto rara in questo settore, no? E come ho iniziato? Niente, abbiamo iniziato quasi per scherzo, per gioco, era il 1985 e qua era da poco nata la prima emittente televisiva che si chiamava Canale 31. Sì, ricordo. E allora abbiamo voluto fare questo esperimento e gioco nello stesso tempo, che poi invece si è rivelata una cosa duratura nel tempo, non per niente oggi siamo considerati, anzi siamo sicuramente senza ombra di smentite, la manifestazione che ora, se non la più longeva, una delle più longeve dell'intero Sud Italia. Senti Aldo, intanto i complimenti, perché stare sulla cresta dell'onda per così tanto tempo, se non si hanno, voglio dire, le carte in regola, e mi riferisco alla voglia di fare, alla freschezza della mente, alla voglia di combattere, di scoprire talenti, perché no? Perché poi da questi festival, se vogliamo, escono fuori a volte anche dei mostri che poi si, non dei mostri nel senso di cose brutte, ma dei mostri nel senso artistico, che vengono lanciati sui palcoscenici e sui prosceni di levatura nazionale, a volte anche quelli internazionali. La kermesse quando viene posta in essere e qual è la location della manifestazione, Aldo? Allora, un attimino ci arriviamo subito, intanto volevo ringraziarti per quello che hai detto prima, però volevo aggiungere anche una cosa. È vero che dal Festival dei Nebrodi sono venuti fuori alcuni personaggi che poi sono diventati famosi anche a livello nazionale, però io sono particolarmente orgoglioso perché del fatto che tanti di questi allora ragazzi che si sono presentati al festival, oggi della musica e della canzone hanno fatto il loro mestiere. Sono tantissimi quelli che fanno i piano bar, che hanno creato dei complessi, che hanno creato delle cose, delle scuole di canto, e quindi sono particolarmente orgoglioso di questo. Per tornare invece ad oggi, il festival si svolgerà il 31 maggio, 1 e 2 giugno presso il Cineteatro Rosso di San Secondo, appeso lungomare a Capo d'Orlando. Ti posso anche dire che l'ingresso al pubblico è gratuito, visto che ci sarà come sempre il patrocinio del Comune di Capo d'Orlando. Ascolta Aldo, siccome si chiama il Festival dei Nebrodi, no? E io credo che la cosa non venga, cioè le porte non vengono chiuse a chi vorrebbe venire dai Feloritani o dalle Madonie, no? Penso che sia aperto a 360 gradi a tutti i giovani della Sicilia quando volessero partecipare. Ma ci mancherebbe, se posso fare un paragone irriverente, al Festival di Sanremo non ci vanno solo quelli di Sanremo. Ci vanno tutti, quindi... Correttissimo, no, era una battuta un po' provocatoria, sì, vabbè. Anche la mia chiaramente. Ci mancherebbe. Senti Aldo, un'ultima domanda. Io ti conosco da diversi anni, so che professionista tu sei e come tieni il palco, e poi hai una voce che è molto calda e quindi consente una maggiore fruizione verso il padiglione auricolare di chi ci ascolta. È piacevole ascoltarti. Fino a quando pensi di tenere il microfono in mano e non sederti invece dietro la poltrona di regista, di promoter, di colui il quale gestisce la macchina dalla poltrona e non come regista, ecco, come direttore artistico, non più come hardcoreman o come conduttore di una manifestazione? Capito benissimo quello che vuoi dire. E ti posso dire che io da qualche anno do molto spazio alle mie partner sul palco, proprio perché sinceramente comincio ad essere un po' stanco. Ma potrei anche risponderti fin quando non ci sarà un altro Aldo Casilli in grado di fare quello che faccio io. Perché lei di modestia, quindi no. No, ma lo dico io perché non è facile sostituirti, perché hai un modus operandi straordinario. Scherzo ovviamente. Aldo, quando vuoi essere presente nella mia trasmissione, anche fisicamente, se vuoi non c'è problema, intanto ci sentiamo, siamo amici anche su Facebook, per cui è un piacere averti vicino, sei un decano di noi conduttori, di chi insomma sale su un palco e tiene un microfono in mano nella speranza di raccontare delle storie alla gente che ci ascolta o a chi è davanti a noi fisicamente. Guarda, è una cosa che mi farebbe veramente tanto piacere e tanto onore nello stesso tempo, anche perché io sono un amante, come dire, all'infinito delle radio, soprattutto la radio, per me la radio è vita. Non per niente la faccio radio dal 1976, quindi puoi benissimo immaginare. Come mi trovo bene in radio, mi trovo bene in nessun'altra parte, quindi... E sicuramente ci potremo mettere d'accordo e mi farà veramente tanto tanto piacere essere lì assieme a te dal vivo in studio. Aldo, il nostro tempo, Big Ben, diceva uno dei nostri decani delle trasmissioni nazionali, ha detto stop. Io ti ringrazio intanto per essere stato mio ospite, ti do un in bocca al lupo per l'ennesima puntata. Appuntamento di questa grande kermesse che ormai ha raggiunto degli ascolti e della visibilità straordinaria. Ci verrei a trovare, spero. Mi auguro di sì, se il tempo me lo consente, mi auguro di sì. E quantomeno per prenderci un caffè e guardarci un'altra volta negli occhi e abbracciarci, è il minimo che si possa fare. Quantomeno, è la stima reciproca. Ti do un grosso abbraccio, un bacio, un augurio, anzi un in bocca al lupo per questo ennesimo appuntamento con il Festival dei Nebrodi, vi ricordo, a Capo d'Orlando, dal 31-1-2 giugno a Capo d'Orlando, una cittadina insomma che la dice lunga, ha una grande storia e una grande tradizione culturale. Grazie ancora ad Aldo Casilli, direttore artistico e conduttore della trasmissione. Ciao Aldo, buon lavoro. Ciao. Prima di salutarci bisogna ricordarvi che l'estate è importante per i nostri piedi, mettere le calzature giuste, Impronte Calzature fa il caso vostro, lo trovate anche su Facebook se volete, Uomo Firme con Carrera oppure Renato Balestra o Pier Carden per la donna. Dunque, Tradescon Milano, Carla Sanchez, oppure i bambini, che sono insomma Walt Disney e tanto altro. Poi i punti vendita a Campo Felice di Roccella, via Cesare Civello 53, a Castelbuono, Corso Umberto 1, 7012. Tutto per la linea per il mare, attenzione, le ciabatte, tutto quello che vi serve per il mare. E ancora... per esempio le De Fonseca, che sono le ciabatte da poter mettere in casa, o la linea comoda, la Riposella. Poi ci sono anche le borse, se volete, tutto a partire da 19 e arrivare fino a 59 euro, quindi siamo in crisi, si spende poco, ma le firme, come sentite, sono straordinarie. Per i piedi è importante, tanti anni di esperienza, vi ricordo ancora, dovete andare a Impronte Calzature, Campo Felice e Castelbuono, pagate poco, ma mettete nei vostri piedi delle calzature di sicuro successo e di sicura freschezza. Poi, per i vostri denti, è importante controllarli, è importante curarli, per far questo bisogna andare a studio della dottoressa Domizio Di Fazio, che è specialista in ortodonzia, ma ha uno studio associato con l'odontoiatria, per cui nessun problema, andate a Castelbuono, in via Sant'Anna 18 bis, troverete lo studio a vostra totale disposizione, sia per quanto attiene l'ortodonzia, sia per quanto attiene l'odontoiatria. Andiamo avanti, per quanto attiene invece le vostre manifestazioni sportive, disbrigo pratiche, portare i vostri congiunti che sono ricoverati in ospedale e sono stati dimessi, bisogna chiamare Croce Verde, volontario sociosanitario, c'è la postazione medica per manifestazioni sportive, quindi con tanto di ambulanza autorizzata, sede a San Mauro, filiali di Finale di Pollina, Cefalù e Castelbuono, dimissione ospedaliera, disbrigo pratiche e documenti sanitari. Telefono 360 866082, oppure 333 40 27 332. Tutto quello che necessita, dall'ambulanza al disbrigo pratiche per quanto attiene le vostre patologie in ospedale e non solo, rivolgetevi a Croce Verde con sede a San Mauro Castelverde. Detto questo, io mi fermo qui perché il tempo è veramente scaduto. Vi ringrazio, ringrazio gli ospiti, da Mara Bosisio arrivare ad Aldo Casilli, passando per l'onorevole Caputo, e ringrazio voi per essere stati pazienti, per averci seguito fin adesso. Vi do appuntamento per domenica sul podcast streaming dalle 9.30 in poi, o anche sui 101.4 in modulazione di frequenza. Ringrazio la parte tecnica, il grande, grandissimo, ormai top manager, insomma un personaggio straordinario, ha dato pure i capelli, si è fatto pure la barba, si è messo pure il cappello, insomma ha tutte le caratteristiche per sfondare. Un in bocca al lupo anche a lui, perché se lo merita, ha lottato tanto nella vita, ha creato anche lui a volte delle sfortune, lo hanno portato ad essere un po' così tentennante, ma lui è coreaceo, è testardo, e quindi chi è testardo, chi è la dura, la vince. Alla parte tecnica, come sempre, Santi Genovese, grazie anche a lui per la fattiva collaborazione. Un bacio a tutti, buon weekend e buona domenica, a risentirci la prossima settimana. Ciao da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.